Savonarola, il frate che fece... fece confessione a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari che, se avesse attraversato l'oceano, si sarebbe ritrovato in una New York ingolfata da 100.000 cavalli che, dopo la completa digestione del loro carburante, cioè i foraggi, producevano al giorno 1.200 tonnellate di cacca e ciascuno quotidianamente un litro d'urina che rimaneva sulla strada, ed entrambe erano complicatissime da rimuovere e da stoccare. E lette oggi da me che, se attraversassi l'oceano, mi ritroverei in una New York ingolfata da quasi 3 milioni di automobili al giorno che, dopo una combustione non completa, scaricano nell'aria monossido di carbonio, ossido di azoto e resti di carburante semicombusto, tutto in forma di goccioline e di particelle difficilissime da pesare ma facilissime da inalare e da ingerire, e non lasciano traccia evidente di sé fino a quando non conducono al cimitero, e in malo modo. D'altra parte dice il proverbio che chi mena la sua moglie a ogni festa e da bere al cavallo a ogni fontana, in capo all'anno il cavallo è bolso e la moglie è una plantana. Serio, capitolo 8, per un pugno di ducati. Ma a questo punto era indispensabile che il processo venisse firmato, non essendo scritto di mano dell'accusato come le leggi avrebbero voluto. Bisognava dunque persuadere il Savonarola a quest'altro passo. Invero è difficile assai dire con precisione come andasse questa faccenda della firma. Gli esaminatori affermano d'essere stati 2 giorni a persuadere l'accusato con parole e conforti umani, ed ognuno può immaginare che sorta d'umanità fosse la loro. Il burlamacchia assicura che gli fu letto un processo e fatto gliene firmare un altro, al che, dentro qualche fede, i discorsi tenuti dai giudici stessi e dal notaio. Questi, dopo aver fatto una prima bozza in cui le risposte del Savonarola erano già alterate, ne fece un'altra con nuove omissioni ed aggiunte. Secondo ogni probabilità, l'accusato venne letta la prima bozza e gli si fece firmare la seconda, che è quella data poi alle stampe. Non di meno le differenze che passavano fra queste 2 copie, sebbene molte e gravi, non erano però sostanziali, come apparisce assai chiaro dal Violi, che ne trascrisse la più parte. Onde si potrà sempre affermare che il giorno 19 di aprile, in presenza di 8 testimoni, 6 dei quali erano frati di San Marco, il Savonarola firmava un processo che, sebbene non comprometteva alcuna parte essenziale della sua dottrina, pure gli avrebbe assai meglio lacerato. Ma perduto in quelle sue allegorie, credette di avere in tutto salvato la sua dignità e la sua coscienza. Bisogna ripeterlo un'ultima volta: il Savonarola credeva di non essere nella condizione degli altri uomini, convinto di avere doni soprannaturali, pensava di non dover parlare il linguaggio comune degli altri uomini, di non dover dire ogni suo pensiero, perché il volgo non li avrebbe intesi e ai fedeli bastava il linguaggio allegorico. Questo sistema, seguito durante una vita intera nelle prediche, negli scritti, nei discorsi familiari, volle continuarlo nel suo processo, e chi volesse avere un'idea chiara intorno al valore di quel mistico linguaggio, legga quelle prediche in cui il Savonarola commenta se stesso, legga gli scritti dei suoi discepoli e principalmente la esposizione che Fra Benedetto fece al processo del suo maestro, e vedrà come assai spesso si pretende che le parole significhino il contrario di quel che dicono. Si racconta che dopo la lettura del processo il notaio interrogasse il Savonarola dicendo: «È vero ciò che è scritto?» A cui egli: «Ciò che ho scritto è vero!» Giovandosi così d'un artificio di parole che Fra Benedetto, il Burlamacchi ed il Pico ammirano e trovano simile alle risposte date da Gesù Cristo ai suoi giudici. Ma noi lasciamo da banda questi aneddoti, molti dei quali furono invenzione di importuni e ciechi ammiratori che volevano considerare il Savonarola non come uomo ma come santo, e infatti gli accendevano lumi e gli recitavano orazioni. Certo è però che quando tutti i testimoni ebbero firmato, egli, volgendosi intorno, disse queste precise parole: «La mia dottrina a voi è nota, ed è nota a tutti. In questa tribolazione vi chiedo solo 2 cose. Abbiate cura dei novizi e conservateli in quella dottrina cristiana in cui li abbiamo sinora mantenuti. Pregate per me il Signore, il cui spirito di profezia mi ha in questo momento abbandonato». Ed allora Fra Malatesta Sacromoro, che oramai sembrava deciso alla parte di Giuda, disse: «Ma sono vere o false le cose che tu hai sottoscritte?» A che il Savonarola, guardandolo sdegnosamente, gli volse le spalle senza rispondere e se ne tornò alla prigione. Quivi egli avrebbe voluto riandare ponderatamente la sua condotta, ma l'animo travagliato e stanco tornava subito alle mistiche contemplazioni. La prigione si popolava di creature soprannaturali, di esseri invisibili, e quando era rapito in questo modo ogni altro pensiero gli usciva dalla mente. Intanto, dopo lunga discussione, i signori vennero al partito di dare alle stampe il processo, cosa a cui il notaio s'era fortemente opposto. Vi si fecero per la terza volta nuove alterazioni, ma non di meno, appena esso venne alla luce, l'opinione dell'Universale si manifestò così contraria alla signoria che si dettero ordini severissimi per ritirarne tutte le copie. I più obbedirono, ma dopo qualche giorno se ne vide comparire una seconda edizione senza che oramai vi fosse più alcun rimedio, ponendo da un lato il desiderio che si poteva avere d'una maggiore fermezza nel Savonarola, risultava assai chiaro che le sue risposte, strappate con la tortura, alterate nella prima bozza, alterate di nuovo nel processo firmato e finalmente una quarta volta in quello a stampa, lo facevano sempre risultare innocentissimo. La signoria quindi radunava molte volte la pratica per avere qualche consiglio e finalmente si venne al disperato partito di tentare un secondo processo. Fu cominciato il giorno 23 di maggio e si procedette con grandissima fretta. Il Savonarola era interrogato mattina e sera, il notaio rifaceva quasi di pianta le risposte, ma ben presto si dovette rinunziare a questo disegno, vedendo che non sotteneva altro risultato che d'accrescere sempre maggior carico alla signoria. Si restò quindi al primo processo. Bisognava, secondo le consuetudini della Repubblica, farlo leggere nella sala del Consiglio Maggiore in presenza di tutto il popolo e in presenza dell'accusato stesso. Ma la signoria invece lo fe leggere solo da un cancelliere degli otto, il quale dichiarò al popolo radunato che il Savonarola non aveva voluto trovarsi presente per paura d'esser lapidato, cosa che non fu creduta da nessuno ed accrebbe sempre maggior carico alla signoria, la quale restò così scontenta di tutto l'andamento dell'esame e del processo che in luogo dei 400 ducati promessi a Ser Ceccone non volle dargliene che soli 30, perché non aveva saputo mantenere alcuno dei patti promessi. Thank you.